FM. Vi chiedevamo quest'oggi quale band italiana ha spesso e volentieri parlato di indiani all'interno delle sue canzoni. La risposta esatta era forse la A, gli Squallor. Assolutamente no. Era forse la B, gli Schiantos. Sì, sì. No. Lei è un cretino, la risposta esatta era la A. Lo dice solo per invidia. Gli che Squallor. Rabbia, rabbia. Nota la bava al bordo della bocca. Ma non bocca. Ce n'è bisogno. Lei ha mai scritto una canzone sugli indiani? Tipo Arrapao? No, esatto, vede, non l'ha mai fatto. No, mi amanca. Forse facendo riferimento ai movimenti indiani metropolitani in più occasioni, e già nel loro primo brano, 38 luglio, per l'appunto gli Squallor, crearono brani con protagonisti indiani d'America, inglobati in improbabili tribù, dotate di tutti i comfort e di tutte le peggiori diavolerie moderne. Ultimo, ma non meno importante, ovviamente il film degli Squallor, per l'appunto anche da lei citato Arrapao. Non deve prenderla male. Lei ha parlato di altro, lei ha parlato di caccole. Sì. Per esempio, lei ha parlato di fagioli. Di fagioli. Di sesso e carnazze. Di gelati, insomma. Di gelati, stato... ma non erano neppure Elio e Stare. No, neanche loro. Proprio gli Squallor. Loro parlavano sicuri. Dell'uomo del Giappone, sì, ma non deve prenderla male, sì. No, no, ma quando faremo una festa surrealista sulle caccole e faremo la del testa, ci diremo sugli schiavi. Ma non l'ho presa male. No. Sì. È tranquillo? Sì. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Le rosica, Non faccia così, andiamo a prendere le pastiglie. Piango. Sta combinando veramente di cotte e di crude il nostro piccolo metallaro di riferimento. Che a volte ci spaventa, ammettiamolo, sì, a volte ci preoccupa. Questa cosa della carriera televisiva mi preoccupa più delle altre cose. Francesca, in linea? Sì, aspetta un attimo, l'altra volta ci hai attaccato in faccia, Francesca. Gente mio, mi stai chiamando, è importante, io devo rispondere sempre nel contatto. Cos'è questa storia della gente? Sei piccolo, Francesco. Ma papà mio mi ha detto che devo essere amo, fai soldi, allora tra la gente. Quindi per far soldi... La gente, detto fra noi, internost. Sì, sì. È un po' un cialtrone. Ah, dici che è un cialtrone? Fregnone, sì. Sì, perché? Cosa ti ha combinato? Promette, non mantiene. Ci penso io, vai a fare il programma. Te pido io i soldi, te pido io. Cioè, te va bene. Ti hanno proposto un programma televisivo? Sì, un altro. Che cosa? Allora, no, vedi la gente mia, no? Ho detto, questo programma è bellissimo, si chiama, posso dirti, si chiama Il Mio Metal! Esiste un programma che si chiama Il Mio Metal? Mi ha detto così. Ah. E io sono andato, solo che in realtà il programma era Mi Piacciono i Fiori. E io sono andato, tempo di 30 secondi, ho scocciato tutta la coreografia e scenografia. Facciamo tutto, dato fuoco a tutto. Era una cicciona che faceva le ricette, sì, bionda. Sì. Che adesso non so come si chiama, clericali, no? No, non lo sappiamo neanche le, noi. Le, poi le. Gli sono saltato sulle esise. Eh? Gli sono saltato sulle esise, no, che erano morte. Ma eri in Rai, Francesco. Eri in Riot. No. Sì. Francesco, senti, è importante che tu non paghi nulla. Non è che questa gente ti chiede dei soldi, ti fa versare i soldi, dei soldi. Ma non lo so, a me mi pare che prima c'erano più soldini per comprarmi i dischi metal. E adesso? Adesso posso comprare solo dischi in offerta. Solo no, quelli. Non gli dare soldini. Il primo disco è Britney Spears. È che è una schifezza, Francesco. Basta, sei vecchio pure, capito, uno schifo. Aspetta. Oh, la gente mia, un attimo, dai, ti chiamo, dai, ciao. No, non attaccarci ancora per sta storia. E soprattutto non partecipare a dei reality. Diamogliela all'amore questa altra possibilità. Sono le 8:40 del mattino, questa è Rock FM, questa è Pane, Burro e Rock and Roll. Ariel, Freak, Spadino, Isaac Rizzi, la redazione, la squadra. E ogni giorno si presenta qui per accompagnarvi fino alle 9. C'è emozione, c'è forte emozione perché sta per partire. Segniamo un nuovo tassello sul mixer di Rock FM. Nessuno aveva mai fatto una radionovela, track, la facciamo noi. Ci siamo, ragazzi, mollate quello che state facendo. Prestate attenzione a questa nuova follia di Pane, Burro e Rock and Roll. Si chiama Zorrock. è una radionovela. C'è un cattivo, si chiama Carlos Freak Santana, c'è una città, si chiama Sweet Home Alabama, e c'è un eroe, si chiama Zorrock. Che emozione. Spadino, sei pronto? Facciamo che schiacci play. Che emozione. In diretta, nella puntata 174, questa è la nostra radionovela, si chiama Zorrock. Buon ascolto. La giornata scorre tranquilla nella ridente cittadina di Sweet Home, Alabama. Gli uccellini cinguettano, il sole è pronto a sorgere di nuovo, tutto sembra presagire alla nascita di un nuovo giorno meraviglioso. Ma il cattivo dittatore Freak Santana sembra non essersi svegliato con il piede giusto. Maledetto popolo di rocchettari ignoranti! Cosa posso aver fatto di male per meritarmi questa paccottiglia di capelloni ciondolanti e per di giorno come li detesto? Rock di qua, rock di là, rock di su, rock di giù, non sanno pensare, parlare d'altro, ma gliela farò vedere io chi comanda qui a Sweet Home Alabama. Me la rido sotto i baffi. Cosa avrà in mente il perfido dittatore Freak Santana? E soprattutto, potrà la popolazione di Sweet Home Alabama roccheggiare tranquilla anche quest'oggi oppure no? Lo scopriremo nella prima puntata di Zorrock. Rock, sempre rock. Io odio il rock, maledetta musica. Ma che dico musica, accozzaglia di rumori. Maledetta popolazione di fricchettoni drogatelli. Oggi ve la faccio vedere io qual è la vera musica, quella con la M maiuscola. Radunate tutti i cittadini di Sweet Home Alabama, perché oggi il vostro amato dittatore vi farà scoprire le gioie del bel canto all'italiana. Sentirete qual è la vera musica. Non temete, amanti dell'happy ending, perché lì dove si nasconde il pericolo, lì dove le speranze sembrano svanire nel nulla, c'è sempre qualcosa o qualcuno pronto a svoltare la situazione. Infatti, non molto lontano, il nostro Don Marco della gara è intento a giocare coi videogiochi. Porca paletta, non mi avrete mai, mostri maledetti! Mamma, mamma! Come dici, mio fedele servitore muto Bernardo? Mamma, mamma! Il cattivo Freak Santana vuole farci ascoltare il bel canto all'italiana. Ma questo è un lavoro per Zorrock! Zorrock! Nel mentre, il cattivo Freak Santana è pronto per la sua lezione sul bel canto all'italiana. Maledetti esserini senza significato alcuno! Quest'oggi, grazie alla mia benevolenza, scoprirete la magia della voce dell'immenso Claudio Villa. Aprite dunque i vostri cuori all'arte e preparatevi a gettare nella monnezza i vostri orrendi dischi rock. Bello, che musica celestiale. Ma senti che note. Armonia. Ma cos'è questo rumore? Chi osa disturbare la mia lezione? Io, Freak Santana. E chi saresti tu? Piccolo moscerino in calzamaglia con la maschera di carnevale. Io sono Zorrock. E come credi di potermi fermare? Sentiamo, Zorrock. Beh, così su due piedi non saprei. Mamma, mamma, mamma. Come dici, mio fedele servitore muto Bernardo? Non sento con questa musicaccia nelle orecchie. Mamma, mamma, mamma. La zia Pina. Mamma, mamma, mamma. Con passo di Gina. Mamma, mamma, mamma. Ah, la spina! Togliere la spina! No! No! Cosa succede? succede alla melodiosa voce di Claudio? Maledetto Zorrock, questa volta mi hai fregato, ma la pagherai cara. Battuto da una presa elettrica. Il popolo di Sweet Home Alabama, grazie al provvido intervento di Zorrock, può proseguire la giornata in tranquillità. Ma presto il cattivo dittatore Frick Santana ne escogiterà un'altra delle sue, e allora un uomo con la mascherina correrà sulla sua rombante motocicletta, perché proprio quando la situazione è critica, quando il rock è in pericolo, è proprio allora che lui è pronto a correre in aiuto dei poveri e degli oppressi rocchettari, perché lui è Zorrock. Cheese Audioslave, la nicchia vincerà prima o poi. Venerdì, ultimo appello per il primo raduno surrealista di radioascoltatori e di radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Mario, il carro ce l'ha pronto? Com'è, Mario? Discreto. Io ho visto le foto, è carinissimo. Sono un Sì. Perdonami, sono un filo preoccupato da un'ultimissima mail che mi è arrivata pochi minuti fa. Sì. Il titolo è: l'artiglieria è pronta, il cannone spara, punto. Sì, spara. L'avete fatto il cannone allora? Spara, sì, l'abbiamo fatto e ci difende bene, diciamo. Spara caramelle, ricordiamolo. Caramelle, coriandoli. Allora, per chi non avesse la più pallida idea di cosa stiamo parlando, spiegaglielo tu, Mario, vediamo se ce la fai. Sì, dunque, abbiamo organizzato la sfilata di carnevale per domenica questa. A Celle Ligure. Celle Ligure. E noi di Pane Burro Rock and Roll abbiamo sposato la causa del carnevale di Celle. Certo. Perché ci sembrava nicchia e quindi ci siamo tuffati di testa. E io sono solo che felice. Mario ha fatto il carro, altri radioascoltatori gli hanno dato una mano. Ringraziamo Max, che era quello della macchina del fumo. Lì, giusto? Giusto. E anche l'amplificazione. E anche amplificazione. Max, ti dobbiamo un favore. Lillo, che è venuto ad aiutarti qualche volta. Sì, esatto, anche ieri sera e stasera. Ci sono anche un altro paio di radioascoltatori che si sono fatti sentire, ma poi per incongruenze non siamo riusciti a metterteli in contatto. Tanti quelli che ci fanno. C'è un po' di dubbio, eh? Nella giornata di oggi molti erano dubbiosi, ma poi lo fate veramente o no, mi dicono. Ragazzi, cioè, non è che mettiamo la faccia così e poi ci nascondiamo. L'appuntamento è questo: domenica 3, 14:30, Piani di Celle a Celle Ligure. Il tutto parte da lì. Esatto. C'è un'uscita di Celle Ligure dell'autostrada? Sì, in fondo alla discesa dell'autostrada, come si incontra la via Aurelia, 500 metri sulla destra c'è l'inizio della manifestazione. Senti, ricordo che ci saranno anche le patenti da vero rocker e avviso subito, non verranno consegnate se non a persone vestite o da cowboy o da indiani. Saremo intransigenti, perché già non c'è il test attitudinale. Esatto, almeno quello. Almeno quello. Mario, io non ho veramente parole, se non che è qualche giorno che inizio a non dormire pensandoci, però io ci sono. Anch'io non dormo più di notte per farlo. Poi ci si risente settimana prossima con calma. Intanto nel raduno surrealista ci siamo tuffati di testa, nessuno lo aveva mai fatto, quindi neanche noi sappiamo com'è un raduno surrealista, lo scopriremo domenica. Bene, sì. Ok. Ci vediamo domenica a Celle. Ciao Mario. Ciao. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Try to Light My Fire, Doors, che ci portano con doppietta di Doors alla fine della puntata 174. Ci si risente lunedì, se lo vorrete, qui sulle frequenze di Rock FM, mentre gli appuntamenti del weekend, sabato mi trovate alla Jamba Live di Rapallo con la Rock FM All Star Band. E domenica, ragazzi, siamo lì, c'è le Ligure, 14.30, primo raduno surrealista di radioascoltatori e radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. No, se vieni vestito da SpongeBob, la patente non... Ma forse da SpongeBob sì, però... Sigla! Sarà un lungo weekend e lo affronteremo a testa alta. Pane, Burro e Rock and Roll, la tua colazione rock, pane, burro e rock and roll. If every good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. È un piacere più delle altre puntate dare il benvenuto alla nuova star di questo programma radiofonico, che si dica... Mi son perso qualcosa. È andato Zorro. Ero di là, non l'ho sentito. Meglio, eh? Avevo detto che non veniva. Allora, in 174 puntate io non ho mai visto una risposta così via SMS. Si è impallato, ho dovuto riattivare tutto, Garavelli. Non dirmelo, eh. È un successo. Farò come Paganini, non replico. È un successo. Zorro, che è un successo, è piaciuto a tutti. C'è il solito critichino, fa cagare, così, ma è roba sparuta. Quelli ci saranno sempre. C'è da dire che il commento più ricorrente riguarda la tua intaccabile professionalità, nel senso che ci accusano di averti tirato in mezzo a un gioco sporco, ma non è così. Questo è per dimostrare... Ascolta, devo andare in onda o posso andare via? La solidarietà della grande famiglia di Rock FM, sì, unita nelle gioie e nel dolore, nella malattia e nel... quella là. Sì, guarda, Marco Garavelli, tanto. Grazie con la G maiuscola per averci regalato la tua partecipazione in Zorro. Noi... Una bella figura di merda. No, non devi prenderla così, vabbè, io te l'ho detto. Lo so. È arte, è una radionovela che avrà successo. La prima radionovela di Rock FM. Grazie Marco. Ci vediamo lunedì, eh? Lunedì. Sì. Non, se ti scrivono delle cattiverie, non chiederci, perché sono falsi quelli lì là fuori. Va bene. C'hanno la lingua biforcuta. Non ci farò caso. E poi è un lustro in più nel tuo curriculum. Se ti va, ho fatto anche Zorro per quelli di Pane, Burro e Rock and Roll. Però se vuoi, può anche non dirlo. Sì, va bene. Ci confermi, penso. Il tempo bello domenica a Celle? Oggi brutto, lunedì brutto, domenica bello. Ha detto Garavelli, ragazzi. Siamo a posto. Precisi. In una botte di ferro, a posto siamo. Lunedì sentiamo, ci lunedì vediamo. Che dobbiamo registrare la seconda puntata. No. Ciao. No. Ciao. A lunedì prossimo. Ciao.